Noi ci siamo posti un po' il problema di come svolgere questa presentazione, perché le presentazioni di libri a cui spesso si partecipa sono magari incontri a cui partecipano l'autore, uno o altri due relatori, i quali raccontano un po' le loro critiche, i loro pareri sul libro, e poi si discorre piacevolmente o meno tra queste persone. Noi volevamo cercare oggi di rompere un po' questo schema, di cercare di andare un po' oltre, diciamo, la presentazione del libro frontale classico a cui siamo abituati. E anche perché, seguendo l'attività di Wuming, abbiamo visto che loro, da quando è uscito il libro, si sono tuffati in una successione vorticosa di presentazioni in tutta Italia e non solo, nel senso che viaggiano anche in giro per il mondo. Noi crediamo perché nel loro lavoro ci sia anche la volontà di confrontarsi molto con i loro lettori, di ascoltare critiche, pareri, suggestioni e così via. E quindi abbiamo pensato, essendo loro un collettivo di scrittori, di proporre a loro e a voi una sorta di presentazione collettiva, adesso senza voler farla troppo, diciamo, complicata, però sostanzialmente per arrivare al sodo è questo. Noi ovviamente adesso faremo qualche domanda iniziale agli autori e parleremo un po' di Altai, però vorremmo che da subito si creasse un'interazione forte con voi. Vorremmo che le domande foste voi a farle, la maggior parte, di modo che appunto loro possano, speriamo, ricevere il più possibile da questo incontro e dal loro pubblico, che è quello che legge i loro libri. Tanto più che un'altra riflessione che facevamo è che parlare di un libro che loro hanno scritto non ha molto senso, perché altrimenti vi leggete il libro e loro potevano fare a meno di venire. Quindi insomma, lo spirito dell'incontro dovrebbe essere un po' questo. Magari non tutti voi avranno letto il libro, ma speriamo che qualcuno abbia parecchie domande da farle. Tanto più che Altai è un po', e qui mi addentro alla prima delle questioni che noi come lapsus vorremmo porre a loro, da più parti è stato annunciato, è stato segnalato come la chiusura del cerchio di Q, che fu il primo. La prima fatica editoriale dell'allora Luther Blissett Project, e che diciamo che fu il libro che li portò al successo, ma questo credo a loro interessi relativamente, ma soprattutto c'è, cioè, appunto, dicevo, è la chiusura del cerchio rispetto a Q. Ma loro ci hanno tenuto a sottolinearlo, e si legge ovunque: non è Q2, non è la prosecuzione di Q, è un romanzo autonomo, è un romanzo a sé. Che però appunto vuole chiudere un percorso, vuole chiudere una riflessione, vuole chiudere 10 anni, questo è il lasso di tempo che passa tra Q e l'uscita di Altai, in cui il progetto di Wuming si è sviluppato, ha vissuto esperienze molto importanti e insomma è cresciuto. Noi, giusto per prima di porre le domande con cui poi passiamo loro il microfono, vorremmo leggervi in maniera molto rapida una sorta di introduzione, di, diciamo, schizzo di Altai, perché magari non tutti voi l'hanno letto, e quindi così, giusto senza pretesa assolutamente di completezza, anzi, però per darvi un'idea, un'immagine di cos'è Altai, vi leggiamo poche righe di una recensione che è stata molto appassionata, molto partecipe, che è stata scritta da Simone Sarasso. Che anche lui è uno scrittore che si muove più o meno nello stesso ambito dei Wuming, e che appunto, cioè, attraverso il quale vogliamo introdurvi brevemente Altai per poi passare il microfono ai Wuming. L'abbrivio è epico. L'incendio dell'arsenale della Repubblica di Venezia è l'11 settembre del secolo XVI d.C. Tra le calli, le fiamme e la pece si aggira l'uomo nuovo, Emanuele De Zante. Nuovo perché questa è un'altra storia. Questo non è il seguito di Q. Nuovo, ok, ma questo tizio, tutto sporco e mani pulite, che preferisce far fare il lavoro sporco ad uno sguaiato furlano dalle mani pesanti di nome Tavosanis, ha addosso reminiscenze di un tempo passato. È solo come un cane. De Zante inizia il suo viaggio scappando, lo terminerà combattendo, e punta dritto a est, da Venezia a Ragusa e poi Istanbul. Al luogo del commiato di Q, De Zante ci arriva insieme alla neve, ma nella mia testa i colori sono nitidi. Se Q è un romanzo gelido come l'acciaio, grigio-azzurro come gli occhi del capitano Dal Pozzo, Altai è rosso fuoco e oro. De Zante cambierà nome, ritroverà quelle origini giudee che credeva sepolte sotto ettari di buone intenzioni e tradimenti. Si troverà faccia a faccia col suo peggior nemico, Giuseppe Nasi, aka Joao Miquez, vecchia conoscenza veneziana del capitano Gert. E questo incontro cambierà la sua vita per sempre. In Altai non mancano fatti di sangue ed armi degni delle migliori incursioni lanzichenecche a Frankenhausen, l'assedio di Famagosta e la battaglia di Lepanto vi bastano. Graditi ritorni? Sì, diavolo, non preoccupatevi, c'è anche il capitano Dal Pozzo. E dovete vedere che razza di straordinario lavoro ha compiuto il tempo su di lui. Formidabili creazioni, il personaggio di Dana è uno dei migliori dipinti dell'intera Pinacoteca Wuminghiana. Ma più che tutto, ancora una volta, il quartetto è riuscito a creare una prodigiosa macchina del tempo. Lungo le pagine di Altai si respira il marcio delle sentine delle galeazze, il sangue rappreso dei ponti in battaglia, l'aroma del cumino misto e quello della seta appena tinta. Ci si riempie l'occhio di Mediterraneo, le orecchie di Turco, Giudesmo e Pugliese. Ci si incanta a immaginare miglia su miglia e città, e donne, razze, diversità. Ora, sappiamo che non è assolutamente completo, ma era per dare un po' una... Quindi compratevi il libro. Esatto, a questo punto compratevi il libro e abbiamo finito. No, è molto benevola come recensione. Entusiasta. Sì, Simone era molto molto entusiasta. Ora noi davvero se la smettiamo di tediarvi, io mi scuso per la lettura che non è assolutamente degna, però ci siamo arrangiati come potevamo e partiamo con le prime domande che vorremmo fare. Davvero, però ci teniamo molto che poi siate voi a stimolare il confronto con loro. Noi vorremmo partire da una cosa generale, cioè Q Altai come chiusura del cerchio dopo Q. Q esce nel periodo dell'esplosione del movimento che poi è rimasto negli annali come il movimento No Global. Negli annali, in realtà sono passati pochissimi anni, però lo ricordiamo in questo modo. Esce sull'onda di un entusiasmo che fa pensare a molti che insomma un mondo diverso fosse possibile. In questi 10 anni sono successe un sacco di cose, ci sono stati errori, ci sono stati slanci, utopie, entusiasmi che poi sono andati a sbattere contro una serie di avvenimenti. Ecco, la domanda che vorrevo fare io è perché Altai è la chiusura di questo percorso, di questa riflessione, e se leggendo il libro, almeno perlomeno questa è stata un po' la mia impressione, ma l'ho ritrovata anche in altre recensioni, c'è stata un po', diciamo, l'affermazione anche un po' di disillusione rispetto a quello che era l'entusiasmo di Q, un po' la perdita dell'ingenuità forse che c'era in Q. Questa è la prima. Solo per possiamo sapere quanti se voi due o c'è anche lui? No, sono loro due. Sono loro due. E siete solo due? Non siamo qua. Ah, quindi ne mancano due. No, noi tendiamo a evitare le presentazioni qua perché sono difficili da gestire. Qua abbiamo già un comitato centrale, ci sono altre due persone qui sotto questa scritta di carattere maoista che sembra confermare le tesi di Libero su di noi. Diventerebbe veramente inquietante. Poi c'è l'effetto che noi abbiamo, l'effetto quinto qua, per cui uno deve parlare la stessa quantità del tempo dell'altro, diventano faticose e ingestibili, quindi prepariamo a spostarci abitualmente in due, no? Ricombinando le coppie per rendere le presentazioni sempre un pochino più interessanti e vivaci, per scambiarci noi stessi i temi tra di noi. C'è una relazione fondamentale, hai detto bene, tra quello che noi chiamavamo il movimento dei movimenti e Q. Però è bene chiarire una cosa: uscì prima della battaglia di Seattle. In un certo senso è diventato il libro di comodino per molti che appartenevano a quel movimento in maniera in qualche modo insperata, nel senso che nessuno di noi... è facile dire che le cose non nell'aria, in realtà no. Cioè, se mi trasporto mentalmente ai primi mesi del 99, nulla di paragonabile a quello che poi è successo negli anni successivi era davvero prefigurabile.